Sei soltanto il wombat e questa è Radio Wombat 8 Hz. Thank you. Yeah. 8 Hz. Yeah. Wombat Disturbed. Disturbed. Radio Wombat. Hot Earth.